Alberto Cordero di Montezemolo, della Cordero di Montezemolo. Allora voi vivete per l'export, cioè esportate? Sì, esattamente. Siamo un'azienda storica che ha sempre curato il mercato nazionale e l'export, però devo essere sincero, negli ultimi anni si aumenta sempre di più la frazione esportata, quasi a circa un 70%. Ecco, verso quali paesi è diretto il prodotto principalmente? Ma si esporta in piccole quantità un po' dappertutto, però i principali mercati sono quelli tradizionali, Germania, America e Svizzera, e ultimamente qualche emergente come l'Est Europa e il Sud-Est Asiatico. Lei crede che questo sia un trend che andrà aumentando oppure spera in una, diciamo così, una ripresa anche del mercato interno? Ma io spero che il mercato interno si riprenda, che il trend estero continui, quindi se devo essere sincero spero che, ma le tendenze ci sono. Sul mercato italiano in questo momento si vive un momento un po' di crisi generale, che non è dovuta alla questione semplicemente del prodotto, mode o altro, ma una questione che sappiamo tutti è quella che è. Cosa crede possa ostacolare nell'immediato futuro il settore vitivinicolo? Questo è un discorso abbastanza delicato, in quanto la burocrazia che ci sta dietro un'etichetta è veramente immensa, quindi sicuramente snellire tutto il processo di controllo, di sovvenzione, di sostegno all'economia che gira intorno al vino è importante, senza però trascindere i controlli che devono continuare a esserci, ma devono sicuramente essere più facili, e lasciando il produttore libero di potersi esprimere e lavorare.